Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Dove sarete, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, in questo ponte? C'è di mezzo il ponte del primo maggio, quindi molti saranno i fortunati via verso il mare o le montagne o le città d'arte, insomma, fuori per godersi un po' di tempo libero. Altri saranno magari al lavoro, qualcuno sarà naturalmente rimasto a casa. Insomma, l'importante è che siate in ascolto di Radio 24, in particolare Non ci sono più le mezze stagioni, tassativamente in diretta anche oggi. Quindi quello che mi aspetto da voi, cari ascoltatrici, che hai ascoltato dopo un'intera settimana, è sempre quello di fare insieme un po' un bilancio delle notizie di questi giorni. Veramente c'è tantissima carne al fuoco e soprattutto, lo sapete, mi interessa sapere qual è la vostra opinione, quali sono le vostre riflessioni sui fatti, ecco, il vostro punto di vista, il vostro pensiero critico. 800 24 00 24 è sempre quello, inequivocabilmente, il numero verde per chiamare in diretta. Ve lo ripeto, 800 24 00 24. Avete tempo sino alle 15 per rimuginare, elaborare pensieri, riflessioni e naturalmente avere parola libera qui e Non ci sono più le mezze stagioni. Intanto oggi ho come sempre un opinionista, un intellettuale, uomo, donna, che appartenga a qualsiasi campo, che abbia scritto comunque di recente un libro, per sapere un po' qual è la sua chiave di lettura sui fatti di questa settimana. E in questo caso c'è Massimo Fagioli, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto qui. Massimo Fagioli, psichiatra, noto psichiatra, ha scritto di recente un libro che si intitola Fantasia di sparizione, pubblicato da dalla casa editrice L'Asino d'Oro. Già il titolo è abbastanza suggestivo, Fagioli. Prima di inoltrarci nei moltissimi fatti di questi giorni, ci racconta molto sinteticamente qual è il contenuto di questo libro. Sì. È la formulazione verbale che mi venne in maniera molto irrazionale 50 anni fa, perché avevo intuito e visto dal mio lavoro, diciamo pure di interpretazione dei sogni, di psicoterapia, la nascita del pensiero dalla realtà biologica alla nascita fisiologica per lo stimolo della luce. E quindi allora, il momento in cui nasce il pensiero nell'essere umano, questo? Il momento in cui nasce il pensiero nell'essere umano, tutto perfettamente esatto. Il pensiero non viene dall'alto, ma nasce dalla realtà biologica, esattissimo. E questa espressione verbale è fantasia di sparizione, perché questa nascita del pensiero comprende la fusione tra la realtà biologica, che contiene la vitalità, ha questa caratteristica umana che si chiama vitalità, che poi è un termine molto usato in giro, con una pulsione che sarebbe di annullamento, di eliminazione del mondo, di non conoscere il mondo, di liquidare l'esistenza stessa del mondo e della luce. Però siccome c'è questa realtà biologica di vitalità, di attività, caratteristica esclusivamente umana, viene fuori non la pulsione di annullamento, ma la fantasia di sparizione, che è tutto poi una cosa che, per un verso, distingue le immagini da ricordi coscienti, che sono percezione e fotografia della realtà. Cioè nel momento in cui il bambino viene alla luce, questo è successo? Nel momento in cui viene alla luce, il pensiero comincia come immagine, o forse proprio approfondendo il linguaggio, come capacità di immaginare. Bene, io direi di fermarci qui, l'argomento è suggestivo e complesso ed è appunto dentro fantasia di sparizione, ma noi adesso ci invece muoviamo verso altri argomenti che sono quelli di questi giorni. Però prima di, intanto lo ricordo agli ascoltatrici e ascoltatori, che ovviamente lo sanno anche meglio di me, no? Dall'influenza suina allo sfogo di Veronica Lario a mille altre cose che sono successe in questi giorni, sapete che avete sempre libertà di parola qui a Non ci sono più le mezze stagioni. 800 24 00 24. Intanto direi però, come sempre, a inizio trasmissione, di collegarci anche con un altro pianeta, avere un altro punto di vista. Riflessioni da Marte. Allora, che si è visto da quassù in questi giorni? Intanto, con questa nuova influenza, sarà mica che i virus, con un po' di narcisismo anche, vogliono ricordare agli esseri umani di essere loro i più stretti, onnipresenti, conviventi degli esseri umani, che possono essere più imprevedibili e agguerriti dei mostrini dei più ansiogeno videogame giapponese? O sarà che con questa crisi globale, oltre a deprimersi tasche e umore, si sono depresse pure le difese immunitarie? Ma in ogni caso, depressione o non depressione, pure i ponti collassano e anche le mogli degli uomini potenterrimi si incassano, mentre cani e gatti ingrassano. Dopo gli Stati Uniti, infatti, anche in Italia è arrivato l'allarme obesità per gli animali domestici. Nel frattempo, per il giallo di Garlasco, torna in auge Bartali, che dice: l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. Intanto, le prossime elezioni fanno sognare, con tra i candidati principi e ballerine. A quando, invece, però, per un po' di par condicio, finalmente, degli avvenenti sirenetti? Male che andasse, ci si può affidare comunque a un bizzarro marchingegno elettronico pubblicizzato sul principale canale della principale TV commerciale a forma di ovetto, che supporta tecnologicamente i fedeli nel recitare il rosario. Ma stramberie terrene, insomma. Massimo Fagioli, lei per caso l'ha vista questa pubblicità di questo ovetto tecnologico con delle registrazioni strane dentro che serve per dire il rosario? No, non mi interessa. Non le capite. No, sono giochetti a punta che se li inventano per i fatti commerciali. Mi sembra un accostamento strano, diciamo, alla dimensione spirituale e religiosa, ma comunque sì, forse è una mia limitazione di orizzonti, non lo so. Io direi di, prima di, intanto sto per salutare il primo ascoltatore, che è stato velocissimo, Ferdinando da Vercelli. Intanto ti saluto, Ferdinando. Ciao. Buongiorno a te, Ferdinando. Senti, ricordo molto brevemente, sempre con uno sforzo di sintesi, alcune delle notizie della settimana e poi voglio sentire volentieri la tua. Quindi, come dicevo prima, sicuramente questo bagarre che è scoppiata un po' con la mail di Veronica Lario, moglie di Silvio Berlusconi, sulle candidature e anche sul loro rapporto alla fine privato, che insomma fosse una coppia qualunque, però lui è il presidente del Consiglio, uno degli uomini più potenti d'Italia e anche insomma del mondo. E poi l'influenza suina o H1N1 o nuova influenza, adesso si vorrebbe che si definisse nuova influenza, perché il fatto di così associarla al termine suino può far pensare che venga dai maiali o dai prosciutti o cose. No, invece non c'entra niente, la carne suina si trasmette via aereo attraverso esseri umani. Comunque l'ultimo bilancio dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è che sono 615 i casi accertati nel mondo in 16 paesi, il 16esimo è il nostro, perché non so se avete sentito che l'ultimo caso accertato è di un italiano di Massa in Toscana, che però è anche guarito in poco tempo. E poi il giallo di Garlasco, non c'è stata nessuna sentenza, anche se si aspettava in questi giorni, perché le indagini sono da rifare. Il ponte sul Po che si è improvvisamente spezzato a Piacenza, poi l'alleanza tra Fiat e Chrysler, i primi 100 giorni di Obama, la ragazza pittrice impiccata in Iran. In Iraq, questo rapporto molto interessante dell'ONU, che ci ricorda come vanno le cose, che cosa succede nel resto del mondo e che cosa anche abbiamo combinato. Mentre in Iraq, appunto, c'è per fortuna tendono a diminuire gli atti terroristici, invece è diventata endemica la violenza sulle donne, nel senso che sono sempre più vittime di prostituzione, di violenza, di traffico di esseri umani, matrimoni forzati, stupri, mutilazione genitale, delitti d'onore, spesso spinte al suicidio per disperazione, perché è l'unica via di fuga. È bene ricordarle queste cose ogni tanto, non ci sono più le mezze stagioni, è fatto di tante cose, di tante notizie leggere, di costume a volte, politiche, ma anche queste cose vanno ricordate, perché bisogna sempre mantenere una coscienza vigile sui drammi, sulle cose che succedono e sulle cose che noi esseri umani anche causiamo e non vengono certamente dalle nuvole. E poi in Olanda l'attentato di un folle al corteo della regina, che ha provocato 5 morti, la pirateria del terzo millennio. Adesso i pirati poco fa hanno annunciato di aver sequestrato al largo della Somalia l'ennesima imbarcazione, sarebbe una nave ucraina. I festeggiamenti del primo maggio per quanto riguarda l'Italia, il federalismo fiscale, sempre il nostro paese che è diventato legge questa settimana, il terremoto, il Papa che è andato ad abbracciare gli abruzzesi e una lista molto interessante riportata dal Centro Quotidiano appunto dell'Abruzzo e zone limitrofe, che ha pubblicato una lista di crolli annunciati già in uno studio del 2006. Questo è molto interessante. Poi non so se vogliamo anche rifarci allo sport, ciclismo, un'altra delusione enorme, Davide Rebellin, azzurro, che ha vinto la medaglia d'argento e che è risultato positivo al doping. Insomma, non si può più sognare neanche per quanto riguarda lo sport. Massimo Fagioli, prima di sentire Ferdinando, c'è una di queste notizie o un'altra che ha in mente lei sulla quale si vuole soffermare? Quella sedicente e affascinante è quella di Veronica Lario. perché il caso vuole che in questi mesi, anzi da 2 anni, sto facendo un certo lavoro di ricerca assolutamente al buio, perché Marco Bellocchio non ne vuole assolutamente, non ha voluto mai assolutamente parlare. Sì. E adesso è l'unico film che sta a Cannes in concorso italiano. Ma cosa, su Veronica Lario? E adesso lì si discuteva delle prime accenni che ha fatto negli giorni scorsi. E le domande, la curiosità di tutti era: ma tu stai parlando forse di Mussolini e Berlusconi? E lui dice: no, non direttamente, eccetera. Io voglio parlare soltanto di questa donna affascinante, questa donna che mi ha sedotto, eccetera, che si ribella contro, ecco, e l'interpretazione è il fascismo. Questo diceva Bellocchio nel film che stava preparando? Sì. Lui sta adesso, comincia a parlarne adesso, perché lo sta facendo da 2 anni. E ne sta parlando adesso perché sta a Cannes, uscirà il 16. Ma la cosa interessante, Massimo Fagioli, è che il giorno dopo che sono uscite queste cose viene fuori Veronica Lario, che si ribella a Berlusconi, al marito, perché è un padrone dittatore, perché nega, i termini nostri sono nulla, l'identità della donna, eccetera eccetera, e quindi lei lo vede come un caso interessante, questo di Veronica Lario, che esprime di autonomia di pensiero. È affascinante perché sarebbe proprio la femminista, quella che rivendica questa identità. E con Marco io anni passati ho lavorato insieme a lui a fare film in cui il tema centrale era proprio la ricerca dell'identità della donna, che è stata sempre sotto un fascismo, anche se non era direttamente fascismo. Nel senso di maschilismo, immagino. Cominciamo... Maschilismo che resta nell'insieme di questo pensiero del logos occidentale, nella cultura, eccetera, eccetera, per cui le donne non sono esseri umani. Il discorso dell'identità maschile, della ragione, è... annulla e nega completamente l'identità umana della donna. Sentiamo tra poco l'irrazionale è condannato a priori. Sentiamo tra poco, sarà interessante anche capire le ascoltatrici e gli ascoltatori in merito a questo che cosa pensano. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, che è anche naturalmente il numero a cui ha chiamato Ferdinando da Vercelli. Eccoci finalmente, Ferdinando, grazie della pazienza. Sì, non ti preoccupare. Prego. Ascolta, volevo dirti questo: tu hai in mano uno strumento potentissimo e io non riesco più a dormire da quando è stata uccisa quella ragazza lì in Iran, attraverso impiccagione. Dell'Ara Darabi, sì. Dobbiamo comunque fare qualche cosa. Questi paesi aderiscono all'ONU e l'ONU non fa niente. I nostri radicali che tanto declamano, non si sono neanche mossi. Ti lascio a te tutto il resto. Grazie per avermi fatto intervenire. Grazie moltissimo a te, Ferdinando, per la prima notizia che hai voluto scegliere, che è questa appunto di questa ragazza che è stata impiccata venerdì, se non sbaglio, ma si è saputo ieri o l'altro ieri, è stata impiccata, si è saputo oggi, che aveva 23 anni, quando aveva 17 anni era stata implicata in un omicidio, loro l'hanno ritenuta, un tribunale iraniano, colpevole, però sembra che lei, tanto per cambiare, si fosse presa la colpa che era invece del suo compagno. Ultimamente, ad aprile, un giudice del tribunale aveva deciso di sospendere la condanna che doveva essere eseguita in questi giorni per 2 mesi, chiedendo alla famiglia della vittima di provare a pensare a un eventuale perdono. Però sembra che, nonostante ci fosse stata questa sospensione di 2 mesi, in fretta e furia l'hanno impiccata. In questi giorni è intervenuta Amnesty, che continua a insistere sul fatto che, appunto, come diceva anche l'ascoltatore Ferdinando, paesi che aderiscono a organismi internazionali devono avere il preciso dovere di difendere i diritti umani, ci cioè devono essere delle regole ben precise, devono aderire come il resto della comunità internazionale, in particolare occidentale, insomma, a queste regole essenziali di convivenza civile e di rispetto dei diritti degli esseri umani. E quindi è stato passato più volte il volto sorridente di questa ragazza in questi giorni in televisione, e si è solo saputo che, insomma, ha chiamato pochi secondi prima, quando si è accorta che la stavano prendendo per condannarla, ha chiamato i genitori disperata, ma non c'è stato nulla da fare. Massimo Fagioli, quella cosa che sentivamo, la notizia che ha riportato Ferdinando, rientra sempre un po'... Orrendo, proprio commovente, questo collega maschio, scusa se lo chiamo, che ci sta male, veramente male, e ha perfettamente ragione, lo comprendo, perché poi, volendo pensare a questa cosa assurda, che hanno saltato anche la loro legge della Sharia, sì, appunto perché ci sarebbe stato il perdono e perché a 17 anni non c'è la condanna a morte. È escluso, però hanno saltato tutto, hanno fatto una cosa addirittura illegale pur di uccidere questa ragazza. Perché dovevano uccidere questa ragazza? Due formulazioni. Io penso e voglio pensare che non è per l'omicidio, è perché questa aveva un rapporto sessuale con un ragazzo, fuori del matrimonio e fuori di questa assoluta repressione, annullamento religioso della sessualità e quindi dell'identità della donna. L'unica cosa che penso è questa. Sentiamo Emilia da Torino. Buongiorno. Buongiorno Emilia. Posso sono un po' emozionata. Sì. Senta, io sento sempre la vostra radio, mi piace molto. Molto bene. Però questa storia di Berlusconi e di Veronica mi fa una rabbia da morire, specialmente la signora Veronica, non ha niente da lamentarsi. Lei la prima è stata a conquistarlo con la bellezza, che vuole? Io non lo capisco, io veramente non capisco. Lei e la moglie, se lo venga in privato questa cosa qui, poi tutta questa parte politica della sinistra, parlano e le danno tutto il potere a lui, perché sono loro che glielo danno, parlano sempre solo di lui, basta che lui dice mezza parola. Lui sarebbe Berlusconi, Emilia? Sì, di Berlusconi. Ah. E la sinistra le dà tutto il potere, perché? Perché non hanno altro da parlare che di lui. Lui basta che dice mezza parola e non si possono lamentare, che se loro vogliono parlare 10 giorni per Berlusconi e Veronica e niente di politica, che vogliono dire? Io vorrei sapere. Anche se, Emilia, ti devo dire, adesso al di là di entrare in merito chi ha torto chi ha ragione, però quando dici che anche Veronica l'ha conquistato con la bellezza, grazie, nei rapporti, diciamo, tra persone che poi stanno in coppia, la bellezza o l'aspetto fisico ha sicuramente una grossa componente nell'attrazione, nel mettersi insieme, no? Poi cosa diversa è usarlo come criterio per candidare delle donne in un parlamento che sia italiano ed europeo. Questo sto dicendo senza entrare nel merito di chi ha torto o ragione, ma la differenza secondo me può essere questa, Emilia, no? Però questo è vero anche, però delle volte anche belle donne hanno la testa, non è che hanno solo la testa. Ah no, certamente, no, ma allora perché qualcuno non candida dei begli uomini, dei sirenetti, degli uomini tutti muscolosi, glabri, magari, però... bei capelli, begli occhi, delle belle labbra, un bel sedere? Perché siamo noi donne che ci facciamo fare questa cosa qui, perché dobbiamo liberarsi, perché noi siamo maggioranza e siamo sempre in minoranza praticamente, perché noi poverine siamo sempre nude, siamo sempre questo, siamo sempre l'altro. Io ho 70 anni e non è che voglio più fare niente, per dire, però per queste donne dovrebbe liberarsi una con l'altra, invece vanno tutte contro se stesse. Perché criticano una con l'altra invece di aiutarsi? Noi ci critichiamo, gli uomini sono più furbi, loro si appoggiano. Capisce? E lì tutto il problema. E la Veronica, io le do torto, perché se le vede a casa sua le cose, non metterle sul giornale, perché anche lei ha sottratto il marito a una donna, questa è una cosa privata, però non si dovrebbe lamentare. Ecco, sottratto era lui quello impegnato, e poi lei si vede che... Però Emilia, è chiarissimo il tuo pensiero, ti ringrazio di essere intervenuta. Posso chiederti in chiusura che cosa stai facendo a quest'ora di sabato? Se non mi faccio troppo i fatti tuoi? Posso chiederti cosa stai facendo in questo momento? Seduta su un divano. divano ad ascoltare voi. Bene, è il modo migliore, perché bella rilassata. Poi vado fuori, ho sentito sta cosa che di nuovo è venuta su Berlusconi, già tre giorni, quattro, cinque, otto giorni che si parla, perché a me piace anche la zanzara, mi piace tutte le, la comincio dal mattino alle 8. La vostra trasmissione quasi non guardo più la televisione perché ho avuto un trapianto del cuore all'occhio e allora non posso tanto guardare, e così ho scoperto questa meravigliosa radio che è veramente bella. Quindi ascolti con intensità, eh? Ok, arrivederci. Grazie Emilia, ciao Emilia, grazie. E Massimo Fagioli, io intanto saluto Mark da Forlì che sentiamo tra pochissimo. Un'altra notizia, poi ritorniamo ovviamente su quelle che sulle quali puntano di più le ascoltatrici e gli ascoltatori, lascio che prenda un po' la forma, la linea che loro danno alla trasmissione. Però un'altra cosa che mi ha colpito in questi giorni è questa storia di una piscina di Bergamo, la piscina della diocesi, nella quale è stata riservata un'ora alla settimana a donne islamiche, e ci saranno soltanto loro in questa piscina perché, secondo appunto la legge musulmana, non possono essere sotto gli occhi degli uomini. Allora, ci sono due possibili posizioni su questa scelta. C'è chi dice no, in questo modo cominciamo a cedere sempre di più alle loro regole, alle loro abitudini, che sono comunque discriminatorie e discriminanti, soprattutto appunto di genere, quindi nei confronti delle donne. Finisce che i progressi che abbiamo fatto tornano indietro, insomma sfumano, c'è questo rischio. C'è invece dall'altra parte chi dice per queste donne può essere un primo passo per uscire, per fare qualcosa di diverso, per magari piano piano integrarsi e non essere sempre chiuse e maltrattate, come spesso avviene dentro le case da questi uomini che le portano appunto dall'estero con loro, ma che poi le tengono lì un po' segregate. Qual è la sua posizione su questa cosa? Che cosa le viene da pensare, Massimo Fagioli? Io devo pensare sempre che la ricerca assoluta di tutta la vita per dare alle donne la loro identità, la loro possibilità, la loro libertà di gestire se stesse, eccetera, eccetera. E nell'ambito di questo discorso, qui c'è il discorso della società anche italiana, che io dico addirittura per fortuna va verso una multietnia, e quindi adesso bisogna che anche loro abbiano nell'integrazione questa possibilità di avere la loro cultura e anche la loro religione, anche se io non sono d'accordo. Purché, Massimo Fagioli, la cultura altrui non significhi il calpestare la cultura di un paese, nel senso anche ovviamente proprio di diritti civili, no? Questo. Ma sì, questo è un gruppo che gestisce il bagno col vestito, perché eccetera, non tacca affatto la cultura italiana, latina e che so io. Non c'è il rischio di tornare indietro, secondo lei, Fagioli? Non c'è il rischio di tornare indietro? Non c'è il rischio di tornare indietro lasciando passare? È una dialettica che bisogna bene affrontare, certamente. Quello che va contato è l'illuminismo e la società democratica e con tutte le leggi, perché quello che conta è le leggi. La religione deve essere un fatto privato. Su questo non ci sono discussioni e non ci sono. Non può intervenire, perché se interviene allora elimina tutte le altre religioni che tante volte sono anche culture, storie millenarie. Quindi diciamo la laicità dello Stato. Ricordo il numero verde agli ascoltatori, le ascoltatrici, 800 24 00 24. Dicevo Mark da Forlì. Mark. Pronto, buonasera. Buongiorno, buonasera. Allora, dunque, l'argomento era di base Veronica. Ma sì, la Veronica ho la vaga impressione... Allora, la signora prima ha parlato di privato, sì, però si dice sempre che i personaggi pubblici non hanno il privato. In parte, devono accettarlo anche un po', no? E nel caso particolare il discorso è che forse la Veronica, perché poi il giorno dopo sia sul Sole 24 Ore sia su Repubblica sono comparsi articoli su fatti privati della famiglia. Un po' su tutti i giornali, direi, sì. Sul fatto dell'eredità dei figlioli, che la Veronica ha ribadito che i figli sono cinque e forse i suoi figlioli diritti come gli altri due. Questo è l'argomento Veronica. Altro argomento sulla violenza. Io ho la vaga impressione che fortunatamente ora si parla della violenza sulle donne. Prima la violenza sulle donne forse era più grossa di ora. però non se ne parlava perché le donne stesse non erano coscienti, avevano paura e non avevano il coraggio di denunciare. Non credo che ora la violenza sulle donne sia diminuita, semplicemente c'è più coscienza e più coraggio di chiedere aiuto. Mark, pronto? Sì, sì, ci sono. Scusami, posso sapere di cosa ti occupi nella vita? Io faccio le domande e poi se voi volete sì, rispondere... No, certo. Sì. Allora, io sono un informatico, ho finito in un ospedale e mi occupo di un'agenda sanitaria, mi occupo di urgenze, gestisco le esigenze primarie delle persone quando hanno veramente bisogno. Sei un accudente, insomma, un premuroso di mestiere, sente questa cosa. Diciamo di uno che è stato costretto ad avere un'etica sanitaria e lo fa volentieri, sinceramente. Bello, quando si sente etica, ecco già questa parola che a volte sembra proprio un bene prezioso in estinzione. Grazie Marco della tua etica, allora, della tua sensibilità. Mark, grazie. C'è Rita da Roma. Pronto? Salve. Rita, ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Voglio esprimere un... Poi però Rita, perdonami, se spegni la radio è meglio perché sì, si sente sì, riecheggiare. Ecco. Ecco fatto. Grazie. Allora, voglio sapere se vivo in un mondo di donne pazze o cosa, o se sono la pazza, se sono io. Sentiamo. L'altra sera alla Zanzara c'erano due giornaliste, due donne, che parlavano su questo fatto del pro e contro le veline candidate o meno, donne di spettacolo, donne. Sì. Una era contraria... è una favorevole, ma io dico, ma azzeriamo un attimo tutto, non so se riesco a esprimere bene il mio concetto. Per ora sei chiara. Azzeriamo un attimo tutto, facciamo scomparire gli uomini dalla terra, immaginiamo un mondo governato da donne, solo donne, in tutti gli stati, Afghanistan, Pakistan, Stati Uniti, ovunque, Iraq. Pensiamo veramente che esisterebbe la pena di morte, esisterebbe l'impiccagione, esisterebbero bambini affamati, gli stupri. Gli stupri. Allora io dico questo, noi, cosa darebbe una donna afghana per potersi esprimere come ci esprimiamo noi in Italia? Dico, le donne abbiamo ancora il coraggio di dire siamo contrarie, andiamo, purché siano donne che arrivino in Parlamento, purché siano donne nel bene e nel male, dobbiamo essere tutte favorevoli. Come vanno a essere contrarie? Purché siamo donne, andiamo avanti, poi si vedrà se opereranno bene, opereranno male, se faranno scelte giuste, se faranno scelte sbagliate. Intanto arriviamoci. Qui siamo ancora a litigare come delle comarette di paese. Ma è mai possibile una cosa del genere? Cioè io non ci credevo l'altra sera quando sentivo una donna che diceva io sono contraria. Ma di che cosa? Ma sei donna, manda avanti le donne, punto. Scusate lo sfogo. No, Rita, era molto intenso e passionale. Niente, questo. Non riesco a credere a questa cosa. Che donne siano contrarie a donne. Andiamo avanti. Se fossimo tutte quante noi a capi di governo, ma quella ragazza non sarebbe stata impiccata, ma ci dobbiamo vergognare a dire che siamo contrarie. Tu dici l'importante, appunto, basta che siano donne in rappresentanza di tutti e delle donne in particolare. Grazie Rita da Roma. Roberta Giordano sempre con voi e con me come ospite, come opinionista di oggi. Sui fatti della settimana c'è Massimo Fagioli, psichiatra, che ha appena pubblicato il libro Fantasia Disparizione con l'editrice L'Asino d'Oro. Devo dire che è sempre molto affascinante, almeno per quanto mi riguarda, vedere come ogni volta la trasmissione prende una piega diversa, un carattere diverso a seconda dei vostri interventi, di chi decide oltre ad ascoltare di intervenire. Adesso sta prendendo una piega femminista, che a me sinceramente fa piacere, ma soprattutto da parte di uomini e di donne. Poi vediamo come prosegue. Ci sono molti ancora ascoltatori e ascoltatrici in linea. C'è Luca da Londra, poi mi piacerà sapere come da Londra, se via internet o cosa. Poi c'è Luisa da Busto Arsizio, c'è Milena da Firenze. Massimo Fagioli, delle cose dette sin qui, a qualche considerazione da fare nelle parole degli ascoltatori? Ho già fatto, cioè che ha preso la piega del difesa delle donne, della ricerca dell'identità delle donne, come l'uomo, e io direi addirittura non è tale se non ha rapporto con le donne, se non ha rapporto con questa immagine umana uguale e diversa. Assolutamente diverse insieme. Poi parliamo anche di crisi, di questo clima un po' di paura tra influenza, crisi, terremoto e altre cose. Però ritorniamo ancora, vediamo che cosa, sentiamo che cosa hanno da dire. Biologico, eccetera. A me piacerebbe sviluppare la cosa su su questo pensiero, cultura, che poi cultura, società e addirittura politica. Sì, sì, tutte le cose intrecciate insieme. Ha fatto sì che la donna fosse legata a un irrazionale che praticamente sarebbe senza pensiero, solo emozioni. C'è questa vecchia idea di origine greca di 3000 anni fa. Ce la dobbiamo prendere con i greci, quindi al di là della civiltà. Luca, quindi da Londra. Luca, sei effettivamente da Londra? Come mai? Allora, sì, io, spiegami questo... io sono italiano. Parli, vivo, è chiarissimo, sì. Vivo, lavoro e sto a Londra sempre. Mm. Vi seguo tramite internet, così ho risposto anche alla domanda che avevi fatto. Sì, sì. Però in questo momento sono 3 giorni che mi trovo in Italia. Eh beh, almeno nelle feste ti vorrei godere no, il tuo paese. Perché il primo maggio è per voi festa, per noi lavorativo. Io sto lavorando. Ah, eh già, perché in Francia, sì, non in tutti i paesi, anche in Europa. No, no? Esatto, esatto. Ah. In Gran Bretagna è lavorativo. Quindi sei un gran lavoratore, Luca, ma comunque sono contenta di averti. Meno male, così perché si lamenta o se si lavora troppo o se non si lavora affatto. Una bella via di mezzo, diciamo, che non guasterebbe. Comunque, Luca, e come ti trovi a Londra? Benissimo, fino a settembre. Non ci sono stati problemi. Adesso devo dire che un po' di nodi stanno venendo al pettine. Per via della crisi o di altro? No, per via del fatto che quando le cose vanno bene si supera, si riescono a ingoiare tanti rospi. Quando le cose vanno male, ovviamente viene a galla tutto. Si crea attrito, quindi, conflitti. Sì, sì, molto, molto a livello sociale, a livello lavorativo, cioè non è un bel momento. Ho capito, sei un po' generale. Questo a livello medio-basso. Magari a livello alto, voglio dire, se fate la stessa domanda a Fabio Capello probabilmente non si accorge di nulla. No, lui e i suoi capelli non si sono accorti di nulla. Però Luca, questa cosa ti voglio chiedere. Tu adesso le notizie che mi vuoi riportare, quello che dirai, sì, lo hai così acquisito, notato, osservato da Londra o nei giorni in cui sì, sei stato qui? Da Londra. Allora, io lo shock sì, è stato perché... io purtroppo, premetto, il mio gatto vive a Lione, per cui io seguo molto l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna. Il e allora tuo... cosa succede? Che a volte certe notizie si vivono in maniera diversa a seconda di dove si è, o del canale a cui si è collegati, o del sito internet. Scusa, ma il tuo gatto vive da solo, ha un appartamento no, per sé? No. No, no, vive, me lo tengono gentilmente 2 amici. Parla francese, immagino. Ma... Sì, assolutamente. Senti, e quindi che cosa hai colto di interessante? Allora, io volevo così farvi riflettere su 2 punti. Il primo, sul discorso delle veline candidate. Sì. Secondo me, così io l'ho visto come un finto problema, perché il problema non è l'avvenenza o meno... o la professionalità, la provenienza professionale di una persona, perché secondo me chiunque ha diritto di candidarsi. Avesse certo fatto il medico, il netturbino, sì, sì, o anche avesse fatto la velina fino a ieri, fino a 24 ore prima. Sì. Perché dico questo? Perché secondo me nessuno in Italia ha fatto emergere un dato. Le veline le possiamo paragonare alle cheerleader negli Stati Uniti, cioè le ragazze pompon. Le ragazze pompon hanno i ragazzi pompon, che sono quelli che le tirano su, le tirano giù, eccetera. Beh, negli Stati Uniti 9 presidenti degli Stati Uniti, tra cui gli ultimi 4, nel bene o nel male hanno fatto la storia degli Stati Uniti, cioè i 2 Bush, Clinton e Reagan, facevano i pompon? Facevano i ragazzi pompon. Io non ho visto nessuno che si è scandalizzato, che ha detto non ti candidi alla presidenza né niente. All'università loro facevano quello. Perché? Perché poi sono stati eletti o non sono stati eletti a seconda del programma che avevano. Poi a uno può piacere di più uno, a uno può piacere di più l'altro, uno può essere d'accordo o meno. Però di fatto 3 presidenti repubblicani e uno che repubblicano non era, quindi... Voglio dire, è una cosa eterogenea, per inciso sono stati 12 finora i presidenti americani che all'università hanno fatto i ragazzi pompon. E nessuno ha mai detto nulla, non ho sentito nulla. Quindi questo significa che al di fuori di determinate nazioni, di un determinato modo di vedere la politica, dove forse vincono più i programmi, vince un pochino più di concretezza, un pochino di più, non tanto di più ma un pochino, forse emerge il programma, forse queste ragazze qua, anziché crocefiggerle in anticipo, facciamole parlare, vediamo che programmi hanno, vediamo cosa vogliono fare in Europa, poi per crocefiggerle c'è sempre tempo. No, è molto... Non votarle. Sì, sì. Ho capito, no, tu dici che quindi è una questione più di cultura, di mentalità, di nazione, quindi di lì si forma il punto di vista. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, come dicevi, non c'è stato nulla di strano, nessuno ha avuto nulla da obiettare per quello che hanno fatto in precedenza. Luca, tu ti intendi anche di calcio? No, più di rugby. Poi avevo una cosa sulla Fiat Chrysler. Sì, sì, prego. Posso? Poi volentieri rispondo sul calcio per quello che ne so. Sì. Allora, dicevo di Chrysler Fiat, anche quello, legittimamente, perché voglio dire, la Fiat è andata in America, ha preso la Chrysler. Però in Italia ho visto che è emersa una cosa che sinceramente non trovo realistica, mentre non è emerso quello che invece è la vera vittoria. Cioè, in Italia tutti a dire la Fiat ha comprato la Chrysler, il grande gruppo, non è vero, ha il 25%. Se io mi compero assieme a un'altra persona il 25% di un appartamento, cioè il 25% è mio, io non sono il proprietario, dico che ho contribuito all'acquisto dell'appartamento di un altro. Sì, è un'alleanza molto importante questa. Ecco, sì, esatto. Non è che si è comprata la Chrysler, no. Esatto, non ha comprato, però... No. Dai toni di alcuni, ecco, a proposito, lasciare stare Radio 24 e la 7, perché ho visto che ne hanno sempre parlato correttamente per quello che ho potuto seguire io. Grazie. In questi tre giorni molto. Però, da altre parti, così facciamo i nomi dei buoni e non dei cattivi, da altre parti ho visto che ci sono dei toni un pochino enfatici, quando nessuno invece ha colto, secondo me, l'essenza di questo accordo. Cioè che finora... tutte le case automobilistiche europee che sono sbarcate negli Stati Uniti, a partire negli anni 80 da Renault, accordo con American Motors, che poi è entrata in Chrysler, da allora, passando per Mercedes, passando per BMW che ha corso da sole, eccetera, si sono fatti tutti un gran male, perché tutte le case automobilistiche europee che sono entrate negli Stati Uniti hanno fatto un errore che Fiat non sta facendo. Cioè, questo era, e nessuno l'ha detto, cioè, tutti sono andati pensando di fare conquistadores, di andare da degli incivili a spiegargli come gira il mondo. Facendo così, poi hanno scoperto che, legittimamente, il nostro mercato vive, lavora, riflette una cultura della mentalità, il loro delle altre, per cui non può esistere un prodotto unico che va bene in tutto il mondo. E quindi si sono fatti tutti molto male. Fiat, invece, non sta facendo così. No, la cosa interessante, la cosa interessante è che porterà tecnologia e dovrebbe costruire le auto cosiddette pulite, di questo era contento Obama, diciamo, no? Quindi, insomma, visto che lui è così attento all'ecologia, all'ambiente, se può venire da un'azienda, una grande azienda italiana, mi sembra una cosa così molto positiva, no, Luca? Ma lo stanno facendo in maniera intelligente, non come finora è stato fatto, perché tutti gli altri, è bene ricordarlo, le francesi, i tedeschi, eccetera, tutte le case automobilistiche che sono nate in America sono fatte un gran male perché hanno trattato gli americani come quattro indigeni a cui vendere degli specchiettini e in cambio farsi dare l'oro. Luca, ti ringrazio, la rimandiamo una prossima volta se mai tornerai in Italia questa domanda sul calcio, perché ho ancora tante ascoltatrici e tanti ascoltatori da sentire. Però ti ringrazio e spero che tu continui allora dalla City ad ascoltarci. Ma finché voi fate giornalismo di questa qualità... Grazie Luca, se vieni a dircelo da Londra sono ancora più contenta. Grazie Luca, un abbraccio, buona continuazione, buon ritorno. C'è adesso, intanto Massimo Fagioli, su questa, dal suo punto di vista di psichiatra, è interessante anche questa chiave di lettura. Dicevo prima, accantonando per un attimo questioni appunto relative alle donne, alle elezioni, alla Fiat, le dicevo prima... Questa sensazione di tensione, no, negli ultimi tempi, ci sono dei periodi storici così, quindi la crisi finanziaria, economica globale, poi per quanto riguarda poi anche l'influenza suina, poi per quanto riguarda l'Italia anche questa cosa del terremoto. Leggevo che una possibilità è che salti fuori una nuova etica dei desideri, cioè il consumo responsabile al tempo della crisi. È vero che può conferire un desiderio, diciamo così, di etica, di essere un po' più responsabili, di prendere un po' più le misure. Sì, io estenderei, approfondirei anche il discorso, la ricerca di una nuova identità, di una nuova mente, di un nuovo pensiero degli esseri umani, e questo si centra, secondo me, sul rapporto uomo-donna. Entra in crisi una vecchia identità che divide, scinde completamente l'identità maschile dall'identità femminile, quindi per cui la trasmissione, appunto, come ha detto prima, aveva preso questa piega di problema grosso, che è angoscia, appunto quello che parla vicino, come si chiamava, che appunto non dormiva per una condanna a morte di una ragazza di 23 anni che probabilmente era pure innocente, e in cui si erano saltate tutte le regole, anche giuridiche, della loro legge, eccetera, eccetera. E questo è quello che è angoscia, quindi quando c'è una catastrofe, è come il terremoto, speriamo che non sia questa febbre suina, una cosa di pandemia, eccetera, in ogni modo, viene vissuto come una crisi dell'identità che c'era, di un'identità come costituita, e poi da questa crisi si spera, conto che ne venga fuori un'altra molto migliore della speriamo, prima. Speriamo, questo è un bel auspicio, e speriamo che appunto non sia soltanto un'illusione. Rieccoci insieme, allora do la parola senza dubbio velocissimamente a Luisa da Busto Arsizio. Grazie Luisa della pazienza anche a te. Niente. Prego Luisa. Intanto buongiorno e complimenti scontatissimi per tutto quello che fate e che dite. Grazie, buongiorno. Niente, io semplicemente un eufemismo, ho letto questa notizia che in Afghanistan si sta legalizzando lo stupro in famiglia. Sì. A me sembra una cosa sconvolgente, se ne parla poco, si sa che l'Afghanistan... Ne avevo parlato 2 settimane fa, sì, proprio qua. Ecco, ma comunque sui grandi... i giornali così se ne parla poco. L'Afghanistan è, penso, forse la punta dell'iceberg della lotta contro le donne, perché si tratta proprio di lotta contro le donne. Ecco, secondo me davvero si fa poco. È vero, sembra sempre una questione quasi fisiologica, un male inevitabile, vabbè, in mezzo a tutte le altre cose non sarà la priorità. Invece, come diceva anche il professor Massimo Fagioli, insomma, la questione del pari dignità e pari rispetto tra donne e uomini è alla base della civiltà umana, ancora prima di ogni altra cosa. Luisa, e ricordo, avevo detto 2 settimane fa che Hillary Clinton, che è segretaria di Stato americana, cioè la ministra degli esteri, aveva detto in questa visita in Afghanistan che non ci poteva essere democrazia, anche se adesso si sta tentando di fare un governo allargato, di conciliazione, eccetera, non ci può essere democrazia, non ci può essere una vera civiltà rinnovata lì se i diritti delle donne sono sempre perennemente schiacciati. No, mi sembra una grandissima ipocrisia questa. E quindi si chiedeva, con alcuni ascoltatori e ascoltatrici in quella puntata, anche al ministro Frattini, ministro degli esteri, che siccome noi aiutiamo sia con donne, uomini e mezzi l'Afghanistan, anche con finanziamenti, di porre un monito, un veto, qualcosa, di minacciare appunto di non finanziare più la ricostruzione e altre cose in Afghanistan, e di sovvenzionare quel governo se quel governo autorizza queste leggi indecenti, no Luisa? Sì, che sono indecenti, che poi insomma ne consegue anche l'impossibilità dell'istruzione, l'impossibilità della cura, di tutto. Della vita proprio, anche nei suoi donna, aspetti più elementari. Sì. Certo. Grazie mille Luisa, ti ringrazio per questa telefonata. Grazie, buon sabato a te, buona continuazione. C'è Milena da Firenze. Sì, pronto? Pronto Milena. Buongiorno. Sono qua, buongiorno. Allora, io volevo dire 2 parole sul caso della Lario, perché sì, sinceramente anche a me dà un po' fastidio questo femminismo così continuo. Sì, io detesto sinceramente Berlusconi, quindi non è che sia parziale per questo punto di vista. Ognuno esprime... Volevo dire questo, che la signora Lario ha atteso, mi sembra, un po' troppo tempo per tirar fuori le magagne di suo marito, magagne che comunque ben erano evidenti, penso, anche quando l'ha conosciuto. Lei era una donna bella, piacente, un'attrice con un futuro davanti a sé, ha preso un uomo che dimostrava tutto quello che era, cioè insomma un po' volgarotto, non bello, non giovane, eccetera eccetera. Quindi che se ne accorga adesso che gli piacciono le donne, del resto piacciono come a tutti quei vecchi signori che si vedono sui giornali fotografati con ragazzette diciottenni nude che gli si buttano tra le braccia semplicemente per motivi che tutti noi comprendiamo perfettamente, insomma avere tanti soldi certamente è un requisito importante. Quindi pensavo che la signora Lario si comporta proprio come una donna, quindi non si può essere femministi verso di lei, perché colpisce il marito nei momenti più delicati, quando ci sono elezioni in corso, quando c'è problemi politici vari, e quindi mi sta cordialmente antipatica anche lei. Non saprei tra i due chi scegliere, ma sinceramente, siccome sono una donna, ecco, io non lo farei mai. Come sta, insomma, comportandosi lei, non mi piace, come non mi piace Berlusconi. Ecco, tutto quello che volevo dire. Ti ringrazio, Milena. No, mi pare legittimo anche il tuo punto di vista. Bisogna dire che sì, è vero che negli ultimi anni è un po' venuta fuori Veronica Lario, forse come in tutte le coppie, dopo un po', ecco, magari si sta bene all'inizio, no? Poi si diventa un po' più consapevoli di certe cose, un po' più intolleranti verso altre, forse man mano le cose si accumulano anche, no? Ed è vero che è venuta fuori però più volte Veronica Lario, diciamo, con la sua autonomia di pensiero, ricordo sul referendum per la fecondazione assistita, sulla questione aborto, sull'omosessualità e su altri argomenti, insomma mi sembra che volesse dimostrare da più tempo di avere un pensiero suo. Poi se abbia fatto bene o male a venirne fuori e venire fuori adesso piuttosto che prima, insomma, ecco, questo lascio a voi ascoltatrici e ascoltatori. C'è prima di Angelo da Venezia, se mi perdoni Angelo ancora un secondo, vorrei c'è il colonnello Giuliacci? Salve Roberta, carissimo colonnello. Ciao colonnello. Senti, io ti chiedo sempre anche a te, come a Valeria della Valle, che sentiremo tra poco, la nostra linguista, uno sforzo di sintesi per quanto riguarda, diciamo, domani. Allora, noi incominciamo a illuderci a questo punto, no? Perché la primavera, ogni volta ci ho detto nelle ultime puntate, sembra poi dopo ritorna indietro, poi la pioggia, sembrava quasi il periodo dei monsoni, la stagione dei monsoni. Adesso che com'è? Le prossime ore, i prossimi giorni? Guarda, sintetizziamo così, i prossimi sette giorni fino a venerdì prossimo sarà prevalenza di bel tempo e temperature gradevole su tutta l'Italia. Dov'è che potremo trovare qualche temporalino? Oggi pomeriggio Grossetano, Senese, Basso Lazio, i rilievi lucani e canabri, l'interno della Sicilia, però questa sera arriva un nucleo freddo da Balcani, porterà temporale dapprima nel Veneto, Friuli, poi Veneto, poi scivolerà Mantovano, Parmense, Piacentino, fino ad arrivare nella notte sulla Liguria. Domani bello ovunque, a parte del temporale al pomeriggio per effetti di questo nucleo su Abruzzo, Molise, la Campania, la Lucania, sempre i rilievi della Calabria, quindi poche cose come puoi vedere, quindi no? Possiamo tollerare a questo punto, poi insomma da lunedì a venerdì direi tempo gradevole, a parte qualche passaggio nuvoloso soprattutto nella giornata di martedì al nord e in parte sulle regioni appenniniche, ma per il resto direi scordiamoci le giornate cupe piene di pioggia per 24-40, ecco, almeno per 7-8 giorni siamo fuori, oltre a non so pronunciarmi onde ci dirai sabato prossimo, ecco, facciamo così per prudenza, riparliamo Roberta, intanto ci accontentiamo di questo, mi sembra già molto. Grazie colonnello Giuliacci. Ciao Roberta, un saluto agli ascoltatori. Ciao, buon tempo a te. Dicevo, Angelo quindi da Venezia, sempre al numero verde 800 24 00 24 per esprimere le vostre opinioni e riflessioni sui fatti di questi giorni. Angelo. Salve Roberta, buongiorno. Buongiorno a te. L'acqua a Venezia come sta? Io sono in terraferma, non sono nel cosiddetto centro storico, però penso che stia bene, penso che sia piena di turisti comunque. Sì, no, infatti, si è visto che era affollata con questo ponte primo maggio, per fortuna tutto bene. Allora, Angelo... Prima di tutto voglio dirle quanto è bella la sua voce, davvero, è avvolgente, rincuorante, confortante quasi. Angelo, ma sei di una gentilezza molto rincuorante e avvolgente anche tu. Ma si sente. Voglio dire, si ricorda la pubblicità di qualche anno fa, il telefono, la tua voce, no? Sì, sì, o la tua croce. No, il telefono, la tua voce, perché dalla voce non so, è come se vedessi una persona, la, la vedi dentro, no? Forse come guardare gli occhi, no? Un po' sì, secondo sì, me. Sì, quindi sì. Spero che l'impressione sia buona. Guarda, quello sì, che hai detto sì, tu sì. Sembra di sì. Grazie Angelo, comunque, grazie molte per questi complimenti che fanno sempre bene, poi fanno apparire il sole anche quando non c'è. E invece la tua notizia della settimana, qual è, Angelo? Guardi, non è una notizia della settimana, è una notizia che c'è ogni giorno. Io non ho televisione da 11 anni. Caspita, il mio nutrimento sono i giornali, internet, la radio, no? È così. È una piccola critica alla stampa in generale, a sì. Chi ci ammannisce, come dire, notizie, no? Ma lei si accorge, non so se è d'accordo, di quante non notizie che ci vengono date, di quante notizie minime, notizie inutili, per esempio le notizie minime sulla gente cosiddetta importante, no? Tutto sto parlare che Berlusconi ha detto che i sondaggi dicono, no? Oppure Napolitano ha detto che bisogna indagare, cioè, se lo dicevo io non mi ascoltava nessuno, lo dice Napolitano, no? Allora se ne prende atto. Oppure le notizie che ci vengono date tipo che quello ha fatto gli auguri a quell'altro, quello gli ha fatto... Su questo sono oppure, d'accordo con te, scusa, io... Scusa Roberto, scusa, Angelo, non riesco a dirti sì. Tutto. Oppure il Papa che se ne va per 15 giorni a Castel Gandolfo, oppure che la RAI, non so quale canale, ha fatto 15 milioni di ascoltatori per il terremoto. Ma voglio dire, ma di quanto ci sta migliorando tutto questo? Ma a che cosa serve? Guardi, io ho letto una cosa recentissimamente, voglio dire, la stampa italiana, i giornalisti italiani non fanno altro, forse per il 60-70% del loro tempo, che riferire quello che dice la cosiddetta gente guapa, si dice in spagnolo, la gente importante, no? Angelo, devo dirti che sono in buona parte d'accordo con te, te lo dico dove non è un po' sintetizzando. No, nel senso che è vero che si potrebbe sfrondare moltissimo, non è che ogni volta che uno apre bocca solo perché è importante bisogna esattamente dire cosa. Io che guardo le agenzie ANSA secondo per secondo tutti i giorni, veramente esce di tutto e si potrebbe sfrondare molto di più. A volte è vero che ci vuole più, diciamo, un tipo di informazione abbastanza globale, di vario tipo, perché i gusti sono tanti. Angelo, mi devi però perdonare e ti ringrazio moltissimo della tua telefonata, perché c'è Valeria Della Valle, per la quale ho soltanto un minuto, la mia linguista della sapienza, alla quale voglio chiedere questa storia delle veline. Valeria, in realtà ecco, il termine che ha un'origine sua particolare, tempi del certo. Fascismo prima, no? Certo, allora una sfida con la velocità. Intanto anche le veline servono a riflessioni linguistiche, prima osservazione. E la domanda mia è questa. Insomma, i giovani oggi non sanno da dove nasce la parola. La velina originariamente era appunto un foglio di carta velina che veniva inviata alla stampa da un ministero, da un governo, per condizionare fortemente l'informazione. Oggi invece tutti pensano alla velina solo con il significato immediato riferito alle cosiddette vallette di un tempo. Allora la mia domanda è: meglio l'una o meglio le altre? E poi, ultima considerazione, a parte il fatto che le veline hanno dato molto alla lingua italiana, perché tutte le parole come velinismo, velinista, velinaro, che sono state create da giornalisti che sanno usare bene la lingua italiana, mi riferisco a Berselli, a Natalia Artesi, a Aldo Grasso, contribuiscono a rendere un fenomeno di costume. Ultima osservazione, solo linguistica, gratitudine a quella che chiamiamo tutti familiarmente ormai Veronica, per aver rimesso in circolo una parola che nessuno usava più. La parola è ciarpane, per alludere a qualcosa di scarso valore, di poco conto. Tra l'altro una parola che è nata nel 500, una parola usata con gran gusto da Guido Gozzano. Grazie. Ecco, se non altro dovremo a Veronica, se cominceremo di nuovo a usare la parola e se i giovani sapranno che cosa vuol dire. Grazie Valeria Della Valle, donna da Formula 1, per la sua capacità di sintesi. Io intanto ringrazio Gigi Borghi in assistenza in regia e alla parte tecnica Peter Bescapè. Massimo Fagioli, ho 30 secondi per una chiusura, proprio velocissimamente, ricordo agli ascoltatori, se volete è la chiusura, io sì. Mi ripeto assolutamente, è questo rapporto uomo-donna, è questa cosa che forse se c'è una crisi d'angoscia, di disordine e di minaccia di qualche cosa, è perché va via la vecchia identità dell'assoluta separazione tra, nel rapporto uomo-donna. Grazie Massimo Fagioli, vi ricordo domani, se avete voglia di stare ancora un po' con me, alle 19 c'è Storielli, avrò con me Mimmo Candito, uno dei più grandi inviati speciali italiani. Roberto Giordano a questo punto vi saluta e vi augura un buon sabato, una solare domenica per domani.